Ave Maria a tutti ragazzi e ragazze carissimi, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio e a tutti anzitutto una santa, anzi una santissima Pasqua che stiamo celebrando nella gioia in questa ottava. Come sapete, penso che tutti sappiate, la festa del giorno di Pasqua è prolungata dalla liturgia della Chiesa negli 8 giorni che seguono. Giorni molto belli e molto intensi, dove la Chiesa, dopo essersi unita alle sofferenze e alla passione di nostro Signore Gesù Cristo, quindi avendone condiviso nella liturgia e soprattutto nella vita l'esperienza di passione e di sofferenza per la conversione e per la salvezza dei peccatori, ora prende parte alla gioia della risurrezione. E tutti noi sicuramente siamo nella gioia, qualunque siano le cose che ci sono successe. E allora, stiamo parlando, ragazzi, se vi ricordate bene, del quarto comandamento. In particolare abbiamo, come dire, intrapreso la volta scorsa il discorso, diciamo sul rovescio della medaglia dei 10 comandamenti, che sarebbero fondamentalmente i doveri dei genitori nei confronti dei figli. Quindi spero che vi ricordiate, vi ho dapprima illustrato un cosiddetto decalogo del buon educatore, figlio e frutto dell'esperienza e della saggezza dei santi e del fior fiore, diciamo così, degli educatori cattolici. Vi ricordo, è un decalogo apparso anche su alcuni, su un numero dell'anno scorso, credo del 2012, del settimanale di Padre Pio, e poi avevo iniziato a proporvi il meno importante, però, come dire, in qualche modo offerto alla vostra intenzione, diciamo così, decalogo, analogo, che non frutto chiaramente di tanta santità, ma frutta un pochettino di esperienza, ecco, di povero prete in cura d'anime, vabbè, oltre che ovviamente dello studio, insomma, che ogni sacerdote deve avere, della scienza debita che deve avere per poter fare il suo ministero, mi sembrava opportuno formulare, più che altro per le indicazioni pratico-operative che questo contiene. Considerando il fatto che oggi il tema dell'educazione è, per quanto mi riguarda, il tema dei temi. Ecco, io vorrei oggi innanzitutto continuare su questo registro e poi vedere anche se riusciamo a vedere, vediamo, alcune sindromi che possono, diciamo così, inficiare, se non guarite con adeguata terapia, il compito educativo dei figli. Allora, innanzitutto vi faccio un breve riassunto della puntata precedente, perché delle 10 indicazioni, diciamo così, pratico-pastorale, ne abbiamo avuto modo di approfondire soltanto 3. Io raccomandavo, i primi 3 punti erano questi: sospettare sui figli non è peccato, a differenza che sulle persone adulte, ecco, quindi però senza essere, come vediamo nel decalogo del buon educatore, senza essere poliziotti. Però bisogna essere comunque attenti, sapendo che tutti siamo stati giovani e tutti abbiamo più o meno provato a fare furbi, chi più, chi meno, a seconda poi del tipo di carattere e di temperamento che ha. Non dobbiamo pensare che i nostri figli siano gli unici stupidi del pianeta Terra, insomma, ecco, illuderci in questo modo. Poi bisogna mettere alla prova la fiducia dei figli, con prove concrete, quindi vedere. Anche, ripeto, mettendo proprio veramente alla prova se i figli mentono oppure non mentono, senza illudersi, ecco, una sorta di illusione. Mio figlio non dice mai bugie. Ecco, e poi non bisogna tollerare mai per nessun motivo mancanze di rispetto. Ecco, perché le mancanze di rispetto sono grave colpa, vi ricordo, diciamo, il diritto del quarto comandamento, che onora tuo padre e tua madre. Abbiamo già visto a suo tempo che l'onore impone dei doveri ben che vanno ben al di là del rispetto, vanno oltre, perché il rispetto è dovuto a tutti. Ma l'autorità, come dire, non deve mai avallare mancanze di rispetto nei propri confronti, ecco, non pensando che per questo si debba, insomma, in qualche modo sentire macchiato del vizio capitale della superbia. Ah, io non mi faccio maltrattare da mio figlio, voglio dire, mi faccio maltrattare da mio figlio, lo sopporto con amore perché sono umile. Ecco, noi sopportiamo con amore e per umiltà i maltrattamenti che ci vengono dal mondo esterno, se siamo davvero sulla via del Vangelo. Ecco, non quelli che ti vengono da tuo figlio, perché se tu non reagisci a questo, quindi dandogli una sorta di benedizione implicita o di autorizzazione tacita, tuo figlio certamente mancherà gravemente al quarto comandamento, ma in parte la responsabilità ricadrà su di te. Qui ci eravamo fermati la volta scorsa. Ora, un altro tema molto delicato è fare estrema attenzione alle compagnie che frequentano i figli, anche da età piccola piccola. Vi ripeto, queste considerazioni sono frutto e sono figlio della mia, sono figlio della mia esperienza pastorale. Cioè, tutti i guai che sono intercorsi, a volte anche molto grossi, a ragazzini e ragazzine, se uno fa un po' un'analisi comparata, uno screening di quello che gli deriva dalla propria diretta esperienza, vedrà che molte volte sono avvenute o a causa o quantomeno con il concorso grave di cattive compagnie, ivi compresi, ripeto, zii, zie, cuginetti o cuginette. Ci sono dei casi anche molto gravi che preferirei, insomma, non scendere troppo nel particolare, anche se sto parlando appunto, insomma, in maniera assolutamente anonima, però sono innumerevoli, vi assicuro, i casi di prematura rovina di anime innocenti anche a causa della frequentazione di qualche parente poco raccomandabile. E qui molto spesso i genitori si mettono, come dire, una sorta di coscienza a posto, dicendo: ma tanto mio figlio sta col cuginetto, tanto mio figlio sta con la cuginetta, cosa vuoi che succeda? Ecco, non bisogna, ripeto, creare falsi allarmismi. Cosa vuoi che succeda se il cuginetto o la cuginetta sono bravi ragazzi? Ecco, anche il parente X o il parente Y. Ecco, attenzione, perché c'è un proverbio della sapienza popolare: chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Anche le amicizie, al di là del contesto parentale, vanno controllate sempre, ma fin da quando i ragazzi sono piccoli, perché questo proverbio è tragicamente vero e purtroppo tragicamente efficace. Il quinto aspetto, che a mio modestissimo avviso anche questo dovrebbe essere un po' oggi meditato e riconsiderato, è il fatto di insegnare che i premi vanno meritati. Cioè, io non può essere, caro figlio mio, che ti ricopro di tutti i beni superflui e non necessari, non essenziali. Faccio qualche esempio: si pensi ai giochi, oggetti elettronici, si pensi ai motorini quando è troppo più grandi, si pensi alle colonie estive, eccetera, eccetera. Cioè, io queste cose, diciamo così, in linea di massima te le do, ma purché tu te li meriti. Quindi, se ti comporti bene con me e se fai bene il tuo dovere fuori delle righe, se a scuola vai bene, io posso anche concederti qualcuna di queste cose. Ma se tu ti comporti male in famiglia, oppure a scuola non fai niente, io ringrazio Dio che te campo, d'accordo? Quindi che ti do da mangiare, da bere, da dormire, come dovere di un genitore che non può non fare una cosa del genere, anche se gli viene un figlio scriteriato quando è piccolo. Ecco, ma non il di più. Perché i ragazzi devono imparare che nella vita ci sono comportamenti che sono premiati e comportamenti che non sono premiati. Comportamenti che ti rendono meritevole di stima, e quindi anche di riconoscimento e di ricompensa, e comportamenti che ti rendono meritevole di biasimo. E quindi che non solo non ti dico bravo, ma non ti premio. Come reagisco con un figlio che viene, per esempio, bocciato a scuola non perché perché ci sono dei problemi oggettivi. Un anno in cui la famiglia ha passato un brutto momento, magari sono state delle situazioni delicate, malattie, sofferenze, morte, oppure un figlio che, poverino, questo è difficile riconoscere per un genitore, ma può succedere, non è proprio, come dire, non lo so, a me viene soltanto il modo con cui lo chiamo in termini comuni, un'aquila, quindi un'intelligenza buona. Alcune persone non hanno, alcuni ragazzi, alcuni fanciulli non hanno intelligenza lucida, non hanno intelligenza viva. Quindi fanno enormemente fatica. Non è un peccato questo, non è un difetto, non è una cosa riprovevole. Ecco, non tutti sono nati per essere dottori e laureati. Se tutti fossero dottori e laureati, penso che il mondo crollerebbe se non ci fosse nessuno che fa anche lavori più umili e più utili per certi aspetti al consorzio civile, no? Quindi se una persona, non lo so, sta a questo livello, però io vedo, non è che sono, che si impegna, che studia, che dà il massimo per quanto può e magari non ottiene risultati eccellenti, non c'è problema. Ecco, ma quando c'è l'ozio e l'essere scansa fatiche, non può essere. È diseducativo, è sommamente diseducativo, perché il ragazzino interiorizza: mi è dovuto tutto, quindi qualunque cosa faccio, tutto mi è dovuto, e quindi perché essere buoni? Allora, noi, vi ripeto ragazzi e anche grandi che ascoltano, dietro il bene ci sono sempre, come dire, due molle che ce lo fanno fare. Primo, la ricompensa del bene, che è il premio, e la gioia che dal fare il bene ne deriva. Questa deve essere sempre la cosa principale. Ma ci deve essere sempre, ma questo lo fa anche il Padre Eterno con noi, non dobbiamo pensare che Padre Eterno non lo faccia, che se tu non fai il bene, anzi fai il male, c'è una sanzione, ci sono delle conseguenze, cioè non è una cosa che tu puoi fare così e poi non succede niente. Ecco, queste idee balorde e come dire, è proprio strampalate, a volte sono figlie di una concezione erronea della divina misericordia. Io sono un supporter della divina misericordia, però non voglio fare in anticipo l'omelia della messa di domenica prossima, l'ho già fatta, tra l'altro in parte, e la divina misericordia deve essere compresa bene, perché la divina misericordia, dico solo questo, per essere rettamente compresa, non è la negazione della giustizia di Dio, affatto, non è la negazione della divina giustizia. Anzi, si dirà di più: se non capisco e non affermo la divina giustizia, non capisco e non posso vivere la misericordia. Nell'esempio che sto facendo, cioè, perché se tu ti comporti male non ti premio? Perché non è giusto. E non è divina misericordia dire: vabbè, ma non fa niente, premiamolo lo stesso. No, no. E la divina misericordia anche con noi non funziona così. Ricordatelo, perché guardate che la divina misericordia è, se berettamente intesa, come diceva Santa Faustina e come celebreremo domenica prossima, molti di noi stanno facendo, anche io lo sto facendo, la novena alla Divina Misericordia in questa settimana, quindi cerchiamo di capirci bene. Se rettamente intesa è quanto di più bello possa esistere, se mal interpretata può diventare, ahimè, l'anticamera e la porta d'ingresso all'inferno, perché praticamente toglie ogni remora al peccato con la scusa che tanto esiste una sorta di fantomatico e perdono preventivo. Cioè, la divina misericordia vuol dire che tanto qualunque cosa fai non c'è nessun problema perché Dio ti vuole bene lo stesso. Ma questo non è né quello che insegna la rivelazione né quello che ci ha insegnato Gesù. Quindi mi raccomando in questo. Un'altra cosa, un altro punto fondamentale, complementare, perché abbiamo parlato di meriti, quindi anche di meriti scolastici, una cosa molto brutta che oggi c'è, è questa, che I genitori tendono oggi a fare malamente gli avvocati difensori dei figli dinanzi a professori e maestri. Allora, vi faccio subito un esempio. Quando io ero giovane e infante, se io tornavo a casa con un brutto voto oppure con una nota di condotta, la reazione di mia madre era che prima mi dava sopra il resto, regolarmente, il resto poteva essere il resto in sganassoni oppure il resto in castighi, per principio. Dopodiché, alla prima occasione possibile, verificava la fondatezza di quello che era stato fatto e se quello era stato fatto c'era il bis, cioè se quello che mi era stato fatto a ragion veduta, quindi con giustizia, c'era il bis. Se veniva verificato che magari non era del tutto così, la faccenda finiva lì, d'accordo? Però io ritengo che questa sia una cosa molto importante perché il ragazzo deve capire che fino a quando è, come dire, destinatario di educazione, con me, che sono genitore, cooperano. Vi ricordate che il quarto comandamento si estende anche alle altre forme di legittima autorità, tra cui proprio appunto i professori e i maestri, cooperano in livello subordinato altri educatori. Nei confronti di questi altri educatori, tu ragazzino devi sempre assumere un atteggiamento di rispetto. E di non soltanto di rispetto, perché anche quelli vanno onorati. Quindi rispetto vuol dire anche ubbidienza e vuol dire anche, come dire, sottomissione alla loro autorità. D'accordo? Certamente che questi si possono sbagliare, certamente che una cosa che fanno potrebbe anche essere non giusta nel merito. Bisogna vedere il modo e le forme con cui questo si fa. Ecco. E comunque, in linea di massima, noi dobbiamo sempre prendere la posizione di chi? Dell'autorità. Cioè, questo si fa dovunque. Cioè, se a me una persona viene a parlarmi male di un prete, io sono un prete anch'io, no? Cioè, la prima cosa che devo fare non è dare addosso a quel prete, cosa che tra l'altro rappresenta una pessima testimonianza di comunione ecclesiale. Per quanto possibile, se possibile, devo cercare di prenderne le difese. D'accordo? Nel senso dire, ma vabbè, forse quel sacerdote ha capito male, forse si è spiegato male, se c'è una cosa oggettiva, forse tu hai capito male, d'accordo? E forse lui non ha capito bene il problema, cioè, fin dove è possibile, bisogna sempre difendere l'altra autorità, perché screditare un'altra autorità è indirettamente screditare te stesso. Questo dobbiamo capirlo, no? Perché se io tratto a pesci in faccia il mio maestro, il mio professore, posso trattare a pesci in faccia anche te. Capite? Cioè, si deve sentire che questo rapporto con l'autorità non è un rapporto da paro a paro. Io giovedì scorso ho fatto un'omelia per la lavanda dei piedi, perdonatevi ragazzi, però vi invito ad andare a sentire per favore su YouTube, perché mi è venuta una sorta di ispirazione, no? Cioè, noi sappiamo che l'autorità anche per noi cattolici, per noi cristiani, è servizio, quindi un genitore in realtà deve esercitare l'autorità nei confronti del figlio come Gesù, quindi non prevaricando, come dire, spadroneggiando, cose di questo genere, ma facendosi servo del figlio. Attenti. Però il fatto che lui debba vivere l'autorità con questo spirito, quindi con spirito di servizio, non autorizza il figlio a trattare il servo, a trattare il genitore da servo. Non so se riesco a spiegarmi. Cioè, l'omelia che ho fatto domenica scorsa è questo: Gesù si è messo ai nostri piedi per lavarli? Sì, ragazzi, si è messo ai nostri piedi il nostro Signore Gesù Cristo. Ci si è messo. L'ha fatto nel Cenacolo e continua a farlo, questo è il tema dell'omelia, nell'Eucaristia, purtroppo. Dico purtroppo perché mi dispiace che poi purtroppo accada, come dire, l'altra parte dell'atteggiamento che non è consentito da lui. Cioè lui si è messo ai nostri piedi, sì, ma non ha mica autorizzato nessuno a metterselo sotto i piedi. Non ha autorizzato nessuno. Cioè, quanto più lui si abbassa, Tanto più io a mia volta devo, come dire, rimanere quasi estasiato e morire di stupore, adorante, dinanzi a tanta degnazione. Ma questo non deve diventare un modo per dire, ah, tratto Gesù Cristo come se fosse l'ultimo, come so, l'ultimo attaccapanni, l'ultima stampella del mondo. Pensate a come viene trattato oggi nella Santa Ostia, che è cosa che mi spacca di in 4.000 pezzi il mio povero cuore, perché mi dispiace. E mi fa dire tante volte che mi trovo davanti al tabernacolo, dicono come hai fatto a fare una cosa del genere. Io non l'avrei fatto, certamente io non sono te, grazie a Dio, non sono Dio, ma è troppo. Adesso, quel troppo Gesù non l'autorizza mica, Nel senso che chi continua a fare così e non si pente sarà punito, secondo me, dalla divina giustizia. E la Signore gli dà, scusa, non ti è bastato quello che ho fatto già io, non ti è sparso abbastanza che io che sono Dio. Mi sono annichilito nell'Eucaristia, mi sono fatto addirittura cosa inerte per amore tuo, e tanto che tu debba abusare di questo, facendo di comune a tutto spiano pure se non stai in grazia di Dio, portando da spasso su quelle manacce il Padre Eterno da tutte quante le parti. Non so se riesco a farmi farmi comprendere, no? Oggi molti genitori. Se qualcuno gli tocca il figlio, guai, c'è praticamente una cosa. Guai a chi tocca mio figlio. Guai a chi si permette di dargli un brutto voto. Guai a chi si permette di contrariarlo. Guai a chi si permette di mortificarlo. È arrivato il principe di Galles, ragazzi. Come si è permesso il professore di mettere 4 a mio figlio, che è tanto bravo, che è tanto intelligente? Come si è permesso di mettergli una nota, che è tanto bravo, mio figlio è tanto educato? Si credono bravi questi genitori che fanno così? Che stanno rovinando completamente i loro figli, i figli che si fanno forti su queste cose e fanno in giro i galassi e i bulletti e trattano a pesci in faccia i genitori, che tanto addirittura i professori, scusate, che li minacciano addirittura, dice se fai questo lo dica mio padre ti denuncia? Bella cosa questo qui? Io ho conosciuto, cioè, ragazzi. Quando io ho fatto le superiori e le medie, ancora non eravamo arrivati a alcuni eccessi di oggi. C'era ancora qualche professore, si dice sempre vecchio stampo, che a me mi ha fatto riga dritto, E non era tanto facile fare riga dritto il sottoscritto, ragazzi. Non pensiate che io sia sempre stato un angioletto, non lo sono adesso, un angioletto buono e tranquillo e sereno, come penso che si capisca anche dal contenuto, insomma, e dal modo, insomma, con cui mi esprimo, no? Capite che non sono un carattere debole, sono un carattere abbastanza forte, quindi non è che era mica tanto semplice tenermi buono, però ci sono riusciti sotto tutti i punti di vista. Allora, una volta incontrai uno di questi, io ero un pezzo che ero già prete, e gli dico, professore, mi raccomando, mi dice, come va? Lei continua ad andare a scuola, dice, non me ne parlare Leonardo mio, non me ne parlare, guarda, a me mi manca un altro anno per avere il requisito minimo di pensione e io poi me ne vado proprio in pensione. Io ho detto, dico, ma no, professoressa, non ci vada in pensione, è una delle poche buone rimaste, se va in pensione lei che fine facciamo? Sapete cosa mi ha risposto? Dice, e io devo starmi ad avvelenare la vita, ad avvelenarmi completamente il cuore, dovendo star a combattere non soltanto con quei grandi gafoni che sono i ragazzi di oggi, perdonatemi, forse è un'esagerazione, ma soprattutto avendo contro tutti quanti i genitori che mi tocca criticare, con il rischio che mi becco qualche denuncia o cose del genere. Per cosa? Combattere una battaglia da soli contro tutti, per cosa? Per che cosa? Ragazzi, non è che tutti i torti ce l'hanno, Ce l'hanno perché i genitori hanno questo andazzo oggi. Perché non pochi professori scrupolosi sono visti recapitare avvisi di garanzia, denunce dai magistrati, come li capisco io, per aver osato mortificare un ragazzo con un brutto e meritato, tra l'altro, voto, denuncia, cioè. Anche se non c'è nessun fondamento, che dopo sicuramente sono cose che terminano con una soluzione, ma voi capite che se arriva l'avviso di garanzia a casa, uno si fa pure il discorso e dice: Ma a me, chi me lo fa fare sta a fare il sangue amaro con questa banda di matti? Perdonatemi un attimo. E se vanno in pensione? E così la scuola, che già fa ridere, va sempre più a rotoli. Quindi, mi raccomando, un'altra cosa. Io vado in giro, sto andando anche in questo periodo, sapete che Pasqua, intorno a Pasqua, gli tocca un parroco, dovendo fare i salti mortali quando sta da solo, a benedire le case. Cosa ti ritrovo dentro le camere di bambini di 6, 7, 8, 9, 10 anni? Ti trovo dentro la camera il televisore. Siccome non sono stupido e deficiente, non è che c'è il televisore, come dire, un monitor che serve per attaccare la PlayStation, tutte le diavolerie che c'hanno adesso, la Wii o quelle cose lì, per farlo giocare. No, c'è il cavo antenna, io lo so riconoscere, le conosco bene le cose elettroniche, quindi quello è un televisore perfettamente funzionante al 100%. Dentro la stanza di un bambino di 7 anni, il quale la sera alle 9 dice buonanotte, mamma, vado a dormire, e c'ha il telecomando in mano ed è libero di girare su qualunque tipo di canale di questo mondo, con quello che oggi si vede in giro, che i grandi devono stare attenti a quello che si vede in televisione. Io dico, ragazzi, dopo mi viene da fare peccare, dico, ma è possibile che uno debba essere così miope e che quel minimo di buon senso si sia completamente andato a fare benedire? Dico, ma cosa pensa un genitore di questo qui? Ma ti pensi che tuo figlio non è figlio di Adamo ed Eva? Ti pensi che certi pensieri balordi non gli vengono? Ti pensi che se veda una cosa balorda, concediamo tranquillamente la buona fede, che la prima volta può succedere per sbaglio? D'accordo, però se c'ha il telecomando in mano e sta da solo in camera, quale remora c'è? O anche il computer dentro la stanza, il computer fisso dentro la stanza del bambino. Ma lo sapete che su internet, io non ve li dico i nomi, no? Basta fare www. E c'è l'accesso a di tutto e a di più. Quando gli pare ai genitori, dico, ma lo sai che esistono dei software per proibire l'accesso ai siti proibiti, le guardano con due occhi così, dico, ma c'è una password dentro il computer, questo lo può aprire quando gli pare, te fanno da due occhi grossi così, dico, guarda che c'è un mio amico, è vero, che esistono dei software che tu puoi, come dire, mettere praticamente, blindare il computer, nel senso che quello può aprire soltanto a certi orari, quando tu ci stai e quando l'accesso al computer è controllato, te guardano con due occhi così. Dico, ma scusa, ma tu sei fuori di testa oppure no? Dico, tu pensi che puoi dargli tranquillamente da usare il computer come se niente fosse a un ragazzino di oggi, con quello che oggi sta in giro? Tu pensi che puoi dargli libero accesso ad internet senza nessun problema? Ma come puoi pensare che un bambino di 8-10 anni sappia resistere ai precoci e violenti allettamenti del senso che sono continuamente sbattuti in faccia da tutti i media, non parliamo dalla rete? Ma come non capire che lasciare tali strumenti nella libera disponibilità di un preadolescente è come incitarlo a peccare? E come pensare che il Padre Eterno, quando sarà, non ti chieda conto di questo che hai fatto, dormendo, quando dovevi stare sveglio? Ecco, recitiamo un attimo, sono le 17, piccola pausa, come sempre. Un Ave Maria, in ricordo della Madonna della Medaglia Miracolosa. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Allora, quindi, ragazzi, attenzione, qui certamente sto parlando principalmente ai genitori, ma tenete conto che un giorno diventerete genitori, se Dio vuole, se questa è la vostra vocazione, anche voi. Quindi mi raccomando, cercate di essere un attimo attenti a quello che fate, ragazzi. Perché i pericoli di oggi sono davvero molti. E è necessario fare il possibile per tenerci lontani. Non essere sotto questo punto di vista ingenui, ragazzi carissimi. Ora, un altro punto fondamentale, che è il numero, siamo arrivati al numero 9. Scusate, al numero 8. Allora, è questo. evitare gli usi precoci del telefonino. Ragazzi, cioè, allora, allora, un ragazzino di 7-8 anni, io dico, no, cosa si deve fare con un telefonino proprio? Qualcuno mi sa rispondere? Fate una telefonata allo 0825 444 391, potete intervenire, dice: guarda Donato, un ragazzino di 8 anni deve fare questo uso imprescindibile, insostituibile del telefonino. Siamo in diretta, quindi mi raccomando, se qualcuno vuole mi chiami, lo dica a tutti, così. Allora, ecco, quindi a mio avviso non è così indispensabile. Cioè, se tu una volta capita, a parte che dove va un ragazzino di 7-8 anni? Comunque capita una necessità per cui ti devo reperire, che ha il telefonino di mio marito o qualcuno che non so se ti andava giù, e ti reperisco lì, ma deve essere una cosa completamente eccezionale, no? D'accordo? Allora, non parliamo poi che io ho visto ragazzini di 10 anni, ragazzi, io non le bugie non le dico, di 10-11 anni con l'iPhone. Con l'iPhone o con vari Samsung Galaxy, eccetera, eccetera. Adesso io vorrei capire cosa diamine deve farci un ragazzino di 10 anni con l'iPhone. C'ha per caso come me da gestire, da dover controllare un profilo Facebook con quasi 2000 amici che ti arrivano 200 notifiche al giorno e che non c'è tempo di stare davanti al computer? C'ha per caso da gestire un sito parrocchiale che ha 300, tra le 350 e le 400 visite al giorno, come capita a me? Ma mi spiegate cosa deve farci un ragazzino di 10 anni con uno smartphone? Che cosa deve farci? Sapete tutti quanti che se ho lo smartphone, posso utilizzare internet tranquillamente sul telefonino, e vanno velocissimi adesso gli smartphone attuali. Non solo, posso ricevere video col Bluetooth, eccetera. Io non vi racconto, io tantissimi anni fa ero giovanissimo prete, cioè, avevo detto che questi punti sono figli della mia esperienza. Cioè, voi dovete fare attenzione, ragazzi, lo dico sempre anche ai miei parrocchiani. Quando io parlo o perché so una cosa, come dire, con certezza dagli studi, quindi dall'insegnamento del Magistero, dei Santi, a cui per quanto mi riguarda coscientemente mi rifaccio in continuazione, oppure quando non c'è un riferimento diretto a questo, io ho la mia esperienza di prete, cioè un prete, un parroco in cura d'anima, sta in mezzo alle situazioni, sta in mezzo alle persone, quindi ne ha contatto diretto. Quindi, allora, a me successe anni fa, tanti anni fa, ero un giovanissimo prete, per puro caso. Pensate che a quei tempi, per farvi fare una risata, lo smartphone ultimo grido era il Nokia, il mitico Nokia 6600, d'accordo? Quindi sto parlando di quasi una decina d'anni fa. Giovanissimo prete, a un certo punto trovo un ragazzino che aveva uno di questi telefonini ultima generazione. Siccome da sempre ho una certa praticità e ci capisco un pochettino con queste cose, mi avvicino a sto bambino, che era un giovanissimo prete, dico: oh, che caruccio, dico, fammi un po' davanti un'occhiata, ma fai un attimo vedere sto coso. Vedo questo ragazzino subito, chiappa e si irrigidisce, dice no. Dico, Dio mio, guarda, scusami tanto, dico, guarda, non ti preoccupare, cioè, non è che, dico, tu sei liberissimo, dico, ma non ti preoccupare, insomma, non è che te lo rompo o te lo so abbastanza pratico. E vedo che parlava e questo si rigidiva ancora di più, d'accordo? Allora a me mi è venuto un po', dico, questo c'è da nascondere qualcosa, dico, lascia tutto, dico, scusa un attimo, che ti alteri tanto? Facciamo così, lo vediamo insieme, d'accordo? E vedo che questo si altera, dico: allora, se tu fai così, adesso andiamo a casa e lo facciamo vedere a tua madre. E questo comincia a piangere, questo qui, no? Allora dico, questo cioè, veramente dico: allora, mi fai la cortesia, andiamo insieme a casa e lo facciamo vedere a mamma. Se da, da, brum, brum, brum, a un certo punto si mette a piangere, a un certo punto accetta di farmelo vedere, Lui pensava che io fossi tonto, vado dentro la galleria, sapete cosa c'era? Un bambino, c'era avuto 10 anni quello lì, eh? C'era un video pedopornografico. Voi capite sto povero ragazzo? Dico, ma figlio mio, dico, ma chi la dice? Ma mi hanno dato blu tutte le cose, dico, sta attento, queste cose ti fanno completamente bere il cervello, ma tra l'altro una cosa di questo genere, anche posso dirlo, potrebbe essere un reato, ma questo è materiale proibito giustamente dalla legge, no? Però capite che voi che avreste fatto? Dico, fammi adesso, io devo assolutamente avvertire la mamma, dovrò trovare il sistema, dovrò trovare la cosa, perché... E questo però andando a casa, siamo andati, ha cancellato tutto quanto. Io poi ci ho provato a parlare col genitore, spiegandogli questa cosa, dovete vedere la faccia. E poi chiaramente questo, non avendo trovato niente, ha completamente minimizzato il punto. Dico, ma dico, scusate. Mi spiegate voi 10 anni fa cosa doveva farci, quale bisogno c'era che un ragazzino di 10 anni ci avesse il Nokia 6600 o quello che era, adesso non mi ricordo se era quello o un N70, adesso non mi ricordo bene, no? Però non ha importanza, è una cosa che io ero giovanissimissimo prete, me lo ricordo benissimo, credo che era la prima estate che facessi, che fossi stato ordinato, no, adesso non capite? Quindi, attenzione, se è possibile bisogna rimandare più in là che si può la consegna di un telefonino, in piena disponibilità. Ed anche dare qualche piccola regola, limitarne l'uso allo stretto necessario, perché anche, cioè, io penso, cioè, oggi insomma, questi adolescenti stanno tutti con questi telefonini in mano a fare 3.000 messaggi a destra e a sinistra. Io penso che da educatore, se si può rimandare... Un po' si rimanda, d'accordo? Fino a quando, come dire, è ragionevole. Dopodiché non si compra l'ultimo smartphone arrivato, d'accordo? Ecco. Adesso tra poco ci saranno più. Io una volta li chiamavo il Nokia Flintstones. Ecco. Te compri un bel telefonino che serve per rispondere alle telefonate e per mandare SMS e basta quando non è piccolo. E anche su questo bisogna fare poi un'attività educativa in continuazione. D'accordo? Punto. Non aspetto, questo vi ho raccontato questo episodio per farvi comprendere che queste cose sono figlie della mia esperienza personale pastorale. Non è che le dico tanto per dire qualcosa e tanto per fare chissà che o chissà che cosa. Allora, nono punto. Questa è un'altra cosa. Allora, non bisogna scherzare né ironizzare. Non bisogna scherzare né ironizzare su fidanzatini oppure su esperienze sentimentali precoci. Io ho sentito ragazzini di 5-6 anni dire al padre o alla madre che c'erano il fidanzato o la fidanzata e i genitori, ingenuamente, spero, sorridere, scherzare, dire ma com'è? È bella, è brutta? Allora, le esperienze sentimentali precoci vanno sfavorite, non bisogna certamente fare, come dire, creare un clima di terrore tipo Gestapo o cose di questo genere, però non bisogna certamente prendere questo discorso alla leggera. Ecco, successe anni fa e mi fu raccontato, d'accordo, una persona di mia conoscenza che trovarono terza elementare. Dentro un bagno un ragazzino e una ragazzina nudi l'uno sopra l'altro. Chiaramente erano un ragazzino e una ragazzina, ma voi capite cosa significano cose di questo genere, no? Quando si trattò di nuovo di riferire questa cosa al genitore, e dal momento che questo fatto era successo in una scuola X di città Y, d'accordo? Non sapevano come dirlo alla madre di questa bambina perché è un fatto molto molto imbarazzante. Allora, alla fine riescono, convocano, non so, adesso non mi ricordo i particolari di chi mi ha raccontato questa questione, se c'era lo psicologo, tutto, insomma, un consiglio, ecco, tipo il consiglio di Stato, chiamano sta mamma e cominciano con estremo tanto a dire: ma sa, signora, non la prenda, non drammatizzi quello che dobbiamo dirle, perché i ragazzi di questi tempi, sa, stiamo in una società che ormai ha perso tanti principi. Cioè, fanno tutto quanto un tipo di preambolo di questo genere. Insomma, alla fine gli raccontano l'episodio, no? Che era successo questa cosa, che purtroppo la figlia era stata trovata dentro un bagnetto, in atteggiamenti espliciti con un bambino. Sapete come ha risposto questa grande mamma? Ha risposto così: e voi mi avete fatto venire a scuola per dirmi questo? Convocando tutto quanto il team di super esperti, lo Stato Maggiore, per dirmi questo? Ma lo sapete quanti anni c'ha? Ma mia figlia c'ha 8 anni. E che volete che succederà mai? C'ha 8 anni, è piccola, no? Allora, avete capito cioè, il problema è che cosa succederà, è piccola. Cioè, siccome tanto cosa stanno facendo? Cioè, è semplicemente un gioco, perché nessuno dei due è in grado, per ovvie ragioni, come dire, di imbastire un rapporto sessuale autentico. Questo era il senso, credo, di questa espressione. C'è qualcosa di cui forse preoccuparsi. Non c'è niente di cui preoccuparsi. Ecco. Ditemi voi che cosa un cristiano deve pensare dinanzi a una cosa di questo genere. Ditemi voi. Si può pensare che cosa si deve pensare? Io sinceramente non lo so. Ecco, quindi, però. Allora, le esperienze sessuali precoci non vanno favorite né a 13-14 anni, che ha fatto? Esce con il suo ragazzo. Esce con il suo ragazzo. E magari torna a tarda notte a imprecisato orario. Esce con il suo ragazzo. Torna a tarda notte. A 13 anni. Guardate ragazzi, adesso qui un tempo come dire, i santi cristiani avevano ben altri canoni di riferimento, no? Avevano ben altri stili educativi, ben altri ragazzi, non questi. Su questa materia tutti gli educatori sono sempre stati, e giustamente, rigidi, ecco, rigidi, ecco. Non minimizzando e non, come dire, sottovalutando in maniera ingenua, e dire ingenuo è dire un complimento, la serietà e la gravità di questa materia. Ecco, perché possono succedere delle brutte esperienze precoci sotto questo punto di vista, anche molto brutte, che rovinano completamente una persona, no? Che viene iniziata prima del tempo al mondo torbido dell'impurità. Ci vuole tanto a capirlo. Quindi certamente non bisogna fare il gioco del nemico. Come dire, assolutizzando alcune questioni. Ecco. Però non si può neanche fare come se niente fosse, o peggio, ripeto, incoraggiare. L'ultimo punto, il decimo, dopo facciamo terminato il decimo, rifaccio una sintesi, così vediamo di focalizzarli. I genitori sono tenuti, per quanto possibile, di aiutare i figli a custodirsi, a tenersi lontano dal male, dal peccato. Quindi, se possibile, bisogna fare in modo di evitare che i propri figli frequentino luoghi ad elevato rischio di peccato. Che per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la mia esperienza, i principali, non gli unici, dopo un genitore deve fare il genitore, sono due. Primo, le discoteche. Secondo, Satanasso, durante più di qualche esorcismo, attendibile, d'accordo? Ha detto queste testuali parole, che le discoteche sono le sue chiese, le chiama così, d'accordo? Le sue chiese dove si distribuiscono i suoi sacramenti e dove si danno le sue comunioni. Ok? E attenzione, un altro luogo ad elevatissimo rischio, a mio parere, qui si potrebbe anche non essere d'accordo e potrebbe anche scoppiare qualche polverone, però vi dico che per quanto mi riguarda è così, sono le gite scolastiche di più giorni. Allora, io ritengo sommamente, su questo mi sento assolutamente, come dire, in buona compagnia per quanto riguarda la tradizione santa della Chiesa, d'accordo? Perché in linea di massima sapete che l'indicazione dei santi è di assolutamente evitare, per esempio, già per un bambino, per una bambina, di dormire fuori casa, ovviamente se non ci sono motivi gravissimi, se non ci sono persone fidatissime. Voi capite che dobbiamo sempre ricordare che le regole, quindi anche queste regole che poi non fanno parte del decalogo, come dice Gesù, sono fatte per l'uomo, non l'uomo per le regole. Per cui se c'è una necessità grave, se c'è un ambiente sicuro, come se non si fosse detto. Però, in linea di massima è preferibile evitare, d'accordo? Perché comunque si crea una situazione, un ambiente. Io non anch'io da piccolo, va bene, faccio così, anche se parlo sempre in anonimo, io da piccolo, per il fatto di aver dormito fuori casa, mi sono trovato in situazione di peccato, d'accordo? Dove alcune cose brutte sono successe, ecco. D'accordo? Facciamo così. Così faccio l'esempio mio e non. Quindi, io sono stato a tutte le gite scolastiche, sono state fatte ai tempi miei, però, non ai tempi di questi. Che i tempi miei eravamo, insomma, così, ma io ero giovane, avevo 14 anni, nel 1985, io cominciai a essere vecchierello. E già eravamo belli svegli a quell'età, a quei tempi, perché già i frutti dei maledetti fine degli anni 60, 60 ormai cominciavano abbastanza a seminarsi in giro, quindi non erano, ecco, ma adesso è veramente negatombe. Allora, che vogliamo fare? Tu dici, ma io di mio figlio mi fido. Tu di tuo figlio ti fidi e fai bene se ti puoi fidare. Ma tu non ti devi non fidare di tuo figlio, tu non ti devi non fidare di Satanasso, che usa queste cose per rovinarlo tuo figlio. E per quanto tu ti possa fidare di tuo figlio, devi chiederti, non potrebbe essere un'occasione di peccato troppo grossa? Punto interrogativo. Non sarebbe meglio evitarlo? Io conosco tantissimi ragazzi e ragazze che alla gita scolastica non ci sono stati mai. Vengono con me l'estate al campo scuola che faccio con i giovani, dove, qualora succedesse qualche cosa che Dio ne scampi e meriti, ne rispondo io personalmente, ma bisogna passare sul cadavere del sottoscritto prima che succeda qualcosa, perché ovviamente le precauzioni e le contromisure prese sono altissime, perché sono bravi, sono, ma come dicevano le nostre nonne, la paglia vicino al fuoco non ci si mette. Perché se metti la paglia vicino al fuoco, basta un nulla, per cui quella paglia piglia fuoco. Allora, vi ripeto, mi sono permesso su questa materia di mettere giù questa serie di indicazioni che ho elaborato sulla base della mia personale esperienza. E che propongo costantemente ai genitori, che molto più spesso e volentieri dicono: ma noi non sappiamo cosa fare, cosa dobbiamo fare? Perché dire bene, sì, tu vai nel decalogo dell'educatore, abbiamo visto la volta scorsa, che dà dei principi fondamentali, no? Però in concreto si può sapere che cosa è opportuno fare. Allora, per quanto mi riguarda, in concreto bisogna, ripetiamo i 10 punti, fare queste cose. Uno, controllare i figli, quindi, perché sospettare su di loro non si fa peccato. Quindi bisogna controllare, verificare quello che fanno. Secondo, bisogna verificare le condizioni soggettive di attendibilità dei figli. Se i figli mentono oppure no, metterli alla prova, fare alcune prove incrociate, insomma, su questo qui. Terzo, Terzo, non vanno tollerate mai per nessun motivo le mancanze di rispetto. Quarto, vanno verificate le compagnie che frequentano, compresi parenti, cuginetti, cuginetti, zie e zii. Cinque, insegnare che i premi vanno meritati. Io ti premio e ti compro ciò che non è necessario se te lo meriti, cioè se ti comporti bene a casa e se vai bene a scuola. Sei, non assumere mai atteggiamenti contrari a professori e maestri. Davanti al figlio vanno sempre difesi. Poi ci vai a parlare e se hanno sbagliato e se tuo figlio aveva ragione, glielo dici ai professori, non glielo dici a lui. Settimo, evitare televisione in camera e seguire l'uso del computer, quindi non lasciarlo al libero arbitrio. Otto, evitare usi precoci del telefonino ed evitare come la peste smartphone o cose del genere. Io ho visto anche, mi sono dimenticato, ragazzini di 12-13 anni avere l'iPad. Adesso, io so benissimo che alcune scuole, specialmente nel nord Italia, se dalla scuola superiore in poi si utilizzerà l'iPad come strumento di studio. C'è qualche sperimentazione che ho fatto in Olanda, non c'è nessun problema. Ma torniamo a prima. Cosa ci devi fare a 14 anni con l'iPad? Che cosa ci devi fare? Io capisco, devo comprare la Wii, la PlayStation, come si chiama, tutte quelle diavole di Nintendo, vari, in PC. Vuoi giocare ai giochetti? Ovviamente il genitore dovrà disciplinarlo, vabbè. Ma con l'iPad cosa devi farci a 13 anni? Che cosa? Quali mail urgentissime devi scrivere in breve tempo? Quale connessione a internet devi avere in maniera interrotta, d'accordo? Quali documenti devi condividere con chissà chi o chissà che cosa urgentissimamente? Quali contenuti multimediali devi averne l'accesso istantaneo e immediato? Ok, quindi 9. Non scherzare o ironizzare su fidanzatini e sfavorire risolutamente esperienze sentimentali precoci. E 10. Evitare, se possibile, che i figli frequentano i luoghi che possono diventare occasione di peccato. Ho fatto due nomi e cognomi, che sono le discoteche e le gite scolastiche, che l'esperienza insegna essere luoghi dove, ahimè, ci si può perdere non poco. Sicuramente, l'innocenza almeno del pensiero, se non del resto. Ora, prima di concludere questa sezione, chiaramente introduco questo discorso che poi, a Dio piacendo, concluderemo concludendo anche il quarto comandamento nella prossima puntata. Volevo accennare a un'altra tematica che è, come dire, complementare e che riguarda sempre il compito dell'educazione. Alcune cose abbiamo già visto, però allora, io in quest'ultimo decalogo ho dato una serie di indicazioni pratiche, ecco, per quanto riguarda alcuni comportamenti da avere nei confronti dei figli. Nell'ultima sezione, diciamo così, di questo squarcio di analisi sui 10 comandamenti, mi sono sforzato, sempre sulla base dell'esperienza pastorale, di individuare di enucleare una serie di comportamenti non proprio che sono, come dire, qualificabili da un modus agendi che ha in qualche modo una sorta di comune denominatore, cioè ci sono dei comportamenti che sono figli di alcune tendenze non buone da parte di alcuni genitori. Quindi, abbiamo visto, il decalogo dell'educatore pone alcuni principi generali. L'altro decalogo vorrebbe essere qualcuna applicazione pratico-operativa, cioè come faccio a tradurre in atto i 10 orientamenti frutto e figlio della tradizione migliore della Chiesa e dell'insegnamento dei Santi. Ho provato a proporlo in queste ultime nostre due conversazioni. E l'ultima parte è il tentativo di porre l'attenzione su una serie di sindromi, io le chiamo così, dei genitori, oggi purtroppo molto diffuse, che minano alla radice il rapporto educativo. Capite che sottointeso a tutto questo discorso, e alla luce del quarto comandamento, c'era appunto questo peculiare tipo di rapporto che è il rapporto educativo. Il rapporto educativo vede la presenza, tu mi dici, facciamo le cose ovvie, dell'educatore e dell'educato in un rapporto che non è paritario, ma è fondato sul principio di autorità, non sul principio della dittatura, ma realmente sul principio dell'autorità, capite? Che va rispettato. Ora, queste sindromi, che adesso mi limito, probabilmente abbiamo ancora 2-3 minuti, ad elencarle, poi la prossima volta le approfondiremo, sono la causa del naufragio sempre più endemico di larga parte della gioventù, a cui purtroppo siamo costretti ad assistere come spettatori, però purtroppo ancora non di rado consenzienti, nel senso che siamo d'accordo con alcune di queste cose, o addirittura conniventi. Cioè, la frase tragica con cui Padre Pio, poco prima di morire, salutò coloro che dovevano rimanere sul pianeta Terra, e che è questa: verrà una generazione di genitori incapaci, no, non una generazione, verranno generazioni di genitori incapaci di educare i figli, non vorrei essere nei panni dei vostri nipoti. Si è perfettamente compiuta, e educatori incapaci fanno uomini e donne di cartapesta, a loro volta incapaci. Capite che si ingenera quindi una spirale disastrosa se non si pone rimedio a questo. Non per niente, ve l'ho già accennato, la Conferenza Episcopale Italiana, nella sua sapienza, ha stabilito che il decennio 2010-2020 sia dedicato all'educazione, perché si rendono perfettamente conto, a ragione, che di buoni educatori oggi c'è carenza, non ci sono. Anche queste ultime considerazioni, che adesso vi ripeto, mi sintetizzo e poi approfondirò la prossima volta, sono in larga parte figlie dell'osservazione e della personale esperienza pastorale di chi vi parla. Ecco, verranno, come dire, proposto in tono leggero e scherzoso, quindi ironico, non per minimizzare, ecco, ma semplicemente per temperare l'estrema serietà, per non dire drammaticità, che caratterizza le situazioni che esse sottendono. Allora, quali sono queste sindrome? La prima è la sindrome dello struzzo, la seconda è la sindrome del cieco nato, la terza è la sindrome del telefono azzurro, la quarta è la sindrome di cappuccetto rosso, la quinta è la sindrome del medico pietoso, la sesta è la sindrome della mamma chioccia, la settima è la sindrome di Amnesty International. L'ottava è la sindrome del padre padrone. La nona è la sindrome della rassegnazione imbelle o della desistenza. Infine ci sono la sindrome del timido, 10, del modernismo, 11, e dell'illuso, 12. Di tutte queste, a Dio piacendo, parleremo dalla prossima puntata. Io intanto rinnovo i miei auguri a tutti di una santissima Pasqua e di una santa festa, Domenica della Divina Misericordia, mi raccomando, rettamente intesa. Santa serata e santa settimana a tutti. Ave Maria.